piede il porticato, mano nella mano. Ed arrivati lassù in piazza pronti per giocare. Ecco bambini in festa per la domenica, pronti per un'avventura da non dimenticare. Ecco il giorno della festa giù in paese, il prete ha detto messa, al bar c'è già una ressa, il maresciallo ingrassa, Maria butta la pasta, e il sindaco che indossa la fascia tricolor. Pronte sono le comari, già stanno a cucinar gustosissime pietanze, già solo a guardar. E il marito che ritorna leggendo il suo giornale, già non vede l'ora di andare a tavola. Andarono